5B. Ascolta e rispondi. Hai già prenotato l'albergo? No, non l'ho ancora prenotato. Hai già chiamato il tecnico? No, non l'ho ancora chiamato. Hai già ricevuto il pacco? No, non l'ho ancora ricevuto. Hai già saputo il risultato dell'esame? No, non l'ho ancora saputo. Hai già trovato un nuovo appartamento? No, non l'ho ancora trovato. Hai già chiesto il permesso? No, non l'ho ancora chiesto. Hai già ottenuto il permesso di soggiorno? No, non l'ho ancora ottenuto. Hai già conosciuto il nuovo professore? No, non l'ho ancora conosciuto.